scusa, anch'io mi ne ho approfittato, mi sono allontanato un attimo per andare nella camera scura, diciamo così. Cosa stavo dicendo? Boh, non me lo ricordo più. Lo so, oramai anche tu sei della famiglia dei rincoglioniti come me. Io non mi ricordo quello che devo fare domani, c'è un sacco di cose da fare, adesso me l'ha ricordato mia moglie, devo accompagnarla, non so, vabbè. Però non mi ricordavo neanche io. Si può entrare? Avanti. Chi è che chiama? Avanti. Io sono, buonasera. Ah, ciao Anto, buonasera. Per un attimo ti avevo riconosciuto. Perché c'è Volecco. Siccome mi è dato parecchio, mi sta dando problemi. Volevo provare questo per vedere come usciva. Insomma, abituato all'altra voce, adesso non saprei. Ti capisco, però non è... c'ha questo effetto un po' così. Claudio, per te? Non so, vieni avanti. Non devo fare prova. Mi stavo dipettando con l'apparecchio là. Quale apparecchio? 87. Non so, Anto. Non so. Questa va bene. La radio con l'eco va bene. Questa devo usare. Il segnale forte. 9.10, sì. 9.10? Sì, però si è agganciato. E non ci arrivi a 20. 9.10, sì. 9.12. È così com'è? Così sei 9. È 9.10, sì. Sì, da 9 a 9.10, modulato 9.12. Già va bene. Voglio provare a fare una cosa. È così com'è, Clara? 9.5 abbondante. Già il parere. Mi ha accordato bene. Adesso ho accordato ancora meglio. Come? Invece c'è 9.15. Già va bene, va. Voleva leggermente accordato, voleva. No, va bene, te l'ho detto, ottimo segnale. Ottimo segnale. No, noi ci siamo soltati qua perché non sono più abituato al casino. Se avessimo usato tranquilli e sereni va bene, ma quando va vedete indietro a me mi si girano le balle, allora mi sono ascoltato qua con Gianfranco, faccio due chiacchiere e basta. Avete fatto bene. No, io stavo provando questo perché, come si dice, perché non l'avevo mai collegato qua, capito? No, va bene, ottimo, ottimo. Ottima, va bene, vai Gianfranco. Sì, anche per me. I controlli sono identici a quelli che hai dato tu, quindi sta andando. Magari la tonalità di voce è un pochino diversa, ma insomma è comprensibile, ecco, niente di particolare, è normale con un altro apparecchio. Tutto lì, riprendi Anto. Purtroppo tocca accontentarmi perché quello l'87 mi sta dando problemi. Ma perché non stai usando più il K? Che problemi c'hai? Già lo uso ogni tanto, volevo utilizzare questo per adesso. Vabbè, tieni conto, quella radio va usata, non è come questa che la puoi tenere spenta, quella devi usare. Avevo stamattina. Vabbè, però non abbandonare, perché ho già fatto il discorso di persona. Se la devi usare, tienila, se non la devi usare, fattila in dinamica, capito? No, te la uso già adesso. Volevo usare questo un po'. Va bene, va bene. Avanti, Giafra. Sì, claro. Cosa ti volevo dire? Quindi hai preso il cavo, eccetera, ed è un H1000. È più o meno il prezzo che c'aveva Mediaglobe, non so se ne avevano loro hanno anche a metri, cioè o meno a metri, nel senso 10, 20, 30, a 7, dai. Sono uscito, sì. Sì, c'è problema. Sì, scusa che ogni volta che abbaiano i cani mi avvicino, Filippo vuole uscire fuori, ha una rottura di balle. Gappa, dai. Dai, io vi lascio parlare, passo un attimino al... Ma così è meglio senza eco? Sì, va bene, sia con l'eco che senza eco. Non è un eco, è un... applicazione con reverbero, non è malvagia. È fatto dalla casa, è fatto. No, va bene, va bene. Ultimo, tu puoi lasciarlo anche così, non è un eco fastidioso. Appagappa, dai. Io vi lascio il vostro QSO, grazie per i controlli. Ma ne vado al 10. Ehi, d'accordo Antonio, grazie a te per essere passato, non ci sono problemi, vai Gianfra. Sì, ciao Antonio, buona serata, alle prossime, se c'è bisogno siamo qua. Kappa, ok, Marco sta... Teneteci informati, però state memorizzando, avete bisogno di qualche prova in V, in U, cosa abbiamo fatto? Hai abbassato il volume sicuramente. Perché non vuole sentire il QRM? Io. Dice Roberto che l'ha baciato il volume. Ce l'ha fastidio a lui, non è ancora abituato ad avere 3, 4, 5, 6 radio come ci abbiamo noi, io ho le HF, ce l'ho in 40, ce l'ho in 80, sto parlando qua, ho le V accese, le UHF accese, ho Galaxy sul canale 23, cioè ho mille cose accese e sono tutte funzionanti, tutte, c'è solo i due volumi, però adesso parlavo con te, non è che posso stare a, però se c'è QSO che dobbiamo fare una parte e l'altra, invece lui si inceppa, capito? Beh, scusa, è chiaro che si inceppa se c'è un rumore di fondo di perché lo squelcio aperto, ma chi è che ce la fa a rimanere con lo squelcio aperto? Ieri mi stava facendo morire la mazza di nervare. A un certo punto è andato in tilt perché c'era l'amico che ha disattivato il tono sulle R0, quindi lo squelch rimaneva aperto in automatico. Cazzo, non capiva più la minchia. E qua, guarda, cambiamo discorso, perché ieri veramente mi ha ammazzato. Poi la questione del duplex, se mi capitava nelle mani, ne mossicavo la testa, tipo Conte Volino, no, c'era presente, come faceva Lino Banfi, cioè il duplexer, può dipendere dal duplex, ti reghi, tieni in pece. Quel duplex li ho dato io, è quello proprio di quella radio lì, è il duplex cable, funziona molto bene. Assolutamente, non c'entra niente, te corsi, io sto usando quello che mi ha dato più, se abbiamo fatto tutto un giro di casini. E tornando al discorso antenne, no Gianfra, non lo faccio più l'errore che ho fatto prima, non me lo piace tutto, intanto qua se monto il sistema che avevo a Carbonazzi, mia figlia mi butta fuori. Esteticamente diventa una cosa bruttissima, come visto sono all'angolo dietro la casa, le antenne ci vedono le punte, non esce neanche dal petto, perché non mi piace, io volevo godere il giardino, mi devo godere tutto, e devo stare io le direttive, non me lo piace molto. Monto la verticale, va benissimo, quello che faccio, quello che non faccio lo fanno i miei colleghi radiomaturi, non c'è problema, però devo avere l'antenna HF, perché insomma se dobbiamo fare due passaggi, due cose, due prove, insomma, qualche QSO, e va bene perché la stessa antenna ce l'ha un amico di Alghero e mi ha detto funziona molto molto bene. Quindi monto quella lì a fianco alla mantova e sul lato appena ascoltato, appena arriva la Smart Tech, monto la Smart Tech, basta, tre verticali, blu finito, tre verticali, l'X50 la lascio dove, la metto sul palo più alto e va bene così. E vediamo, questa primavera magari o periodo più caldo tolgo la XC50 e metto la 510 e basta, tutto verticale già fra, perché poco spazio e molta più tranquillità che avere antenne alimentate, rotori e balle varie. Però ho regalato tutto a Roberto, ho fatto tutto a lui, se ne gode lui, c'è un bellissimo terrazzo, è casa sua, può fare quello che le piace, basta così, finiti giù. posto, diciamo. Solo che per quanto alto è sempre la società tirizzera, no? Dalla città. Se in alto sì, però se circondato dai nemici, perché i palazzi più alti sono sempre nemici. Quindi sì, c'è il mare davanti, quindi vi presumo che quest'estate, se impara a usare l'apparecchio, potrà fare parecchi collegamenti con la Liguria, con quelle zone lì, eccetera. Quindi si può in ogni caso divertire, però facendo le cose che le dico, ma anche non di capusuglio. Oh yeah, dunque, se ci penso, mamma mia, se ci penso, chissà che stava ascoltando, se sarà spanciato dalle risate, guarda. Vabbè, Claudio, poi ti volevo dire, stamattina ho provato il ponte lì di Bruncuspina, perché c'era un QSO, dovevo vedere se passavo, perché era quello che mi mancava, dei ponti, è il più lontano, l'altro, sono riuscito a passare con la 510, eccetera, con la più alta, e ripassavo bene, un po' così così con la 300, però insomma, vabbè, può darsi che sia anche, come si dice, un pochettino sordo, però insomma funziona. Quello lì c'è da tanti anni, è sempre lo stesso. Che Bruncuspina cos'è che è rimasto? Che ponte c'è? C'è l'R... Poi, aspettami, non mi... Un R7. Da non confondere con 7 alfa, R7, quindi è 145-775, il tono non me lo ricordo, se ce l'ha. Contestando, vediamo. No, allora non so il tono, forse c'è il tono. Dismesso, lo sai. Dismesso, nel senso che è da tanto che non è attivo 775, 750, la receiver 7. Però se mi stai dicendo che tu l'hai provato, c'era QSO, vuol dire io non lo sento. Non lo sento, io vabbè Gianfranco, non faccio testo, te l'ho detto ieri, c'ho un'antenna per terra, un metro a terra, X50, devo adesso sistemarmi le altre cose, poi tra l'altro lì in quel pezzo proprio stavamo facendo lo scavo per mettere i tubi dell'acqua piovana, e quindi non è che potevo mettere in testa le antenne. Insomma mi organizzo e la metto come cristiani, dai. Vabbè, quello normale, no? Quello lì, quel ponte lì, quello lì è molto in alto e quindi se succede qualcosa ci vuole molto, ma molto sacrificio, perché lì c'è la neve, adesso c'è la neve, ci dovrebbe essere la neve, penso. Quindi a salire in salita è un grosso sacrificio per gli eventuali malcontenti. E niente, sì, adesso ora come ora è inutile qualunque prova. Questo chi è? 3 alfa, cos'è? Ogni tanto ne spuntava uno di questi punti, no? Neanche io, basta che ci sia un pochino di propagazione, c'è quello francese da Corsica che aveva sparato. Aspetta, questi francesi vanno a mettersi i punti a 2000 metri, coprono tutta la mezza Sardegna, la Liguria, e probabilmente sono anche abbastanza potenti. R3 alfa sì, 87.5 e la sezionale di Alghero arriva molto bene qua, anche con un latte lo uscito, arriva molto bene. Gianfranco l'hanno montato l'altro giorno, non so dove, se è a Montalvaro, comunque una posizione sicuramente molto alta, che arriva a fondo pieno qua, è proprio pieno. si va molto molto bene. R3 Alfa 145 687.5, il tono mi pare che sia 74.4, mi pare, sì, 74.4. Sì, aspetta che non mi torna, ci denti alla schiena, già ho fatto un'impresa oggi, me ne posso stare tranquillo, quindi sì, ce l'ho, era lui il R3 Alfa, non si sa dove sia, e di chi sia, cioè di chi è chi l'ha piazzato. Sezione aria di Alghero. Ah, non sapevo neanche che sezione aria di Alghero. Sì, penso che sia sezione aria di Alghero, pure io non so se sono un'altra sezione, comunque è della sezione di Alghero. Ma ha detto il tono? Il tono dovrebbe essere a 74.4. Allora, memoria, vediamo, 687.5. Ecco, te l'ho citato. Funzion, come cazzo ci faceva qua, vedi, a piedi tanto perdo l'orientamento. Funzion, rev, no. Funzion, tono, no. Sì, l'hai citato tu? L'hai citato tu, Giaffra? Sì, sono io. E guarda, lo rifaccio. Fondo scala. Fondo scala. No, non mi vai a citare sui punti che non siano rossi, a meno che non sia qualche occia. No. Preferisco transitare nei nostri. E vabbè, i punti sono liberi. Non è che c'hanno la marca. E poi succede un altro. Oh, lo sai che ieri notte stavo guardando un film, tra una cosa e l'altra, nella pubblicità ho acceso il portatile e di notte, che evidentemente è diventato tutto più tranquillo, probabilmente spariscono molti disturbi. Aspetta, ho premuto il coso, la portante del portatilino, tac, sull'imbara, ho detto ma è davvero l'imbara. Poi ho ripremuto, tac, di nuovo l'imbara. E dopo si è sentita la signorina dicendo monte l'imbara in HF. Ho detto, ciao. Dico, dentro la stanza col portatilino, anche capovolto, funzionava. Poi ho provato l'altro, quello digitale, stessa cosa. Ho detto, cavolo, sono rimasto perplesso. Sicuramente la notte cala parecchio il rumore e quindi riesce a transitare alla mezzanotte, tieni presente. Sì. Alla grande. Cioè mi porto il telefono qua che ogni tanto sento qualche messaggio, certo pubblicità che mandano, mamma mia, che già prende poco il mio telefono. Più ogni volta, cioè, quando rientra mia figlia la vedo a casa sua, la vedo quando parcheggia, la sento, ma già passa sempre qua. Stai sempre in ansia, vabbè, mi ha detto che stava rientrando, dovevo andare a ritirare della roba, dei regali per Natale e poi rientravo, però. Eccoci, faccio. Prego! Immagino che che si è portato appresso la bombola d'ossigeno, la maschera, tutto quanto. Sì, ci vuole. Roberto non è molto per la, diciamo, sicuramente si dovrà cimentare e dovrà impegnarsi nell'utilizzo dei programmi, anche perché è indispensabile. Per poter sapere e collegare ti volevo dire, Marco, di lì ci dovresti però mettere anche una bella schermatura, perché evidentemente a lui arriva l'influenza della stazione c'è a fianco, OQG. Quindi ci vuole un po' di schermatura, perché sennò si fa disperare. Avanti, Claudio. Carissimo Scorpio, ti vedo il movimento, no? Mi hai fatto un po' così preoccupare quando hai detto eccomi, sono partito, perché sai, già ero partito io ieri, è partito Gianfranco, sei partito anche tu, è un casino, lavoro sul tetto, poi siamo scesi. L'Italia era in autarchia per le sanzioni durante il periodo fascista, capito, Claudio? Quindi era fil di ferro, non rame. Io sono d'accordo con voi. La prima cosa che mi ha insegnato soprattutto Marco, ma lo dico perché qua presente, che per poter avere grandi regge e poche perdite ci vuole un'antenna di che sia in buone condizioni, nuova, e soprattutto il cavo con i connettori di buona produzione, di insomma queste cose così. Io ho imparato queste cose da lui e dagli altri che mi hanno insegnate. Lui è appena arrivato, quindi saprà che il lavoro che aveva per fare l'SWL o per andare in 27 potrebbe anche andare bene, ma quello per fare l'animatore ci vogliono cavi buoni, connettori buoni, antenne buone, altrimenti non fai assolutamente niente, questo è il motto. Ma se lui me l'avesse detto, io non lo sapevo, se lui me l'avesse detto che quel cavo era vecchio, lui mi ha parlato del cavo già pronto, tutto, io non sapevo niente, subito quel BL che, per carità di Dio, però io ho ordinato 50 metri di cavo di H1000 per potermi fare i lavori delle antenne. Mi serve tutto perché dovevamo fare la verticale, quindi me ne servono almeno una ventina di metri, poi devo montare la GPO, me ne serviranno un'altra ventina di metri, ne avanzeranno 10 metri, ma quelli li tengo per fare le ispezioni, per fare le cose che necessarie che servono, con tutti i connettori nuovi, ho ordinato tutto nuovo dalla maschera. Quindi se lui me l'avesse detto, anziché ordinarne 50, ne avremmo ordinato 100 metri, perché me lo fa pagare appunto a 3 euro rispetto a Fusaro, Marco, l'H1000 Fusaro 6 euro al metro, capito? Vedi tu. Quindi la maschera era a 3 euro, io l'avevo già preso, non la maschera da Media Globe, a 3 euro quando avevo fatto l'altro lavoro, quindi se lui me lo diceva io li ordinavo di più e così lo cambiavamo direttamente, glielo davo e si cambiava tutto lì. Vabbè, comunque piano piano le cose si metteranno a posto. Sei arrivato, Marco? Che ce lo stavamo chiedendo poco fa, c'è un R3 Alfa, ne sa qualcosa? Dove Claudio dice che è in zona Alghero, possibile? Con Claudio, giusto per sapere più o meno dove era, per vedere che raggio di copertura aveva. Va bene, a te Claudio per i saluti e a Marco. Sì, a saluti, adesso Marco dà un'occhiata al gatto lì e poi sale in radio, qui facciamo due prove con Roberto. Ma è Roberto invece che fino a fatto ha abbassato tutti i volumi ed è sparito. Attento, Roberto Rotondo. Ah, fai la seggia, prendere i connettori e andate. Ah, io vabbè, prendo le pizzette. Vabbè, bisogna che li scegli anche come si fa il sugo e preparare qualcosa. Va bene Marco, ti aspettiamo allora, noi siamo qua sul 20, io e Gianfranco, poi magari ci spostiamo nella nostra, nel nostro shack V1, ok? Okay, adesso hai detto Rotondo, adesso ho capito perché lo chiamano, l'ho fatto quadrato. Sì, è quadrato di nome di fatto lui. A roba davanti, fa una cosa di 10 minuti, 10 ore. Ui, che disperazione. Te l'ho detto, quella è l'influenza di UQG che c'è su tutta quella zona, e tanto è vero che sono anche presi i vigili urbani che sono diventati quadrati. A proposito di UQG, no, allora facciamo per confidenza, ci facciamo a pezzi entrambi. Io ho detto appunto che a lui il nominativo li si addice proprio perché è quadrato, lui vede sempre tutto quadrato, okay? Ma io sto ore a volte in officina, ma col fratello hanno dei diverbi allucinanti, no, tutto così, no, è così, no, tutto così, cazzo, è proprio una cosa allucinante. È una cosa allucinante, Roberto. È di una, veramente una persona. Ce ne sono pochi, perché ti dà il cuore, si va a pezzi, ma c'è anche un nuovo per l'occasione. A proposito di UQG, l'ho visto qualche settimana fa, stavo preparando la Roberta, io stavo aspettando la moglie, drumito, rossa in dire, ci ho avuto un colpo al finestrino, gatta, già mai si miscia. Ma voi siete abusivi, perché comprati la radio, cosa vuoi? Ma io vi devo sentire con... Sì, cazzo, mi ha fatto morire di giorno, già c'era anch'io. Voi a proposito digitale dobbiamo fare delle prove, io tu e Marta, in UHF che è digitale. Perché noi... è due, l'ho messo già a due. No, mia moglie mi ha chiesto a quant'è la caldaia. La moglie, noi abbiamo fatto il passaggio, no? Beh, quello più alzato, io, tu, come Walter. Forse anche Marco c'è già te, già. Adesso si dice S0 l'FB, allora che io da voi, ma io S0 un cugino, sto già anni, non puoi parlare, io S0 un cugino. E tanto non le dice fa niente, appena riconoscevano la voce di lì, spegnevano tutti gli strumenti, le poste, tutto, non abbiamo sentito niente, basta, noi possiamo più. Certo, un pisce, siamo visti due chiacchie, due risate, siamo guardati. Buon spogliero, come stai? Hai toccato ma moto, sì, le radio ce l'hai sempre, sì, ho toccato, non entra perché ti addormenti sopra il microfono, in casa. Si sente russare, come è stato a dire, sai, prima ci vedevamo spesso, da quando è morto povero Mario, però era molto amico di Mario Forbici, lui stava tutte le mattine lì, infatti mi ha detto, no, me ne vado a pesca, cosa fai a casa, qui, là, capito, che mia moglie è in pensione, quindi... devo stare a rincoglionirmi, cazzo Giudizio, intanto già non ti sei rincoglionito. Da quant'è che non lo vedo? A me mi è successo proprio quando ero da Roberto, che mi ha detto, mi è passato Gianni, è stato Gianni, è già sparito, sì, è già sparito, mannaggia. Ci ha fatto morire quell'uomo, micidiale. E quindi probabilmente cosa lì Roberto ha preso, dato la vicinanza, lo ha contagiato. Non sapeva che Roberto è diventato animatore. Aspetta, ci vanno a cominciare a vedere le antenne. Mi telefono come avevo fatto una volta. Ho visto le antenne lì. Ho detto no, frega, no. Salendo via Milano. Direttivo, ce n'è poco, quel palazzo alto io. Ah, ma qua, ma quel palazzo giallo e grigio? Sì, stavo rifornendo. Ah, tutto pieno di antenne. Sembra il parco di antenne di Diabolichi. Ha detto, mamma mia, siete incoglionito voi. Ma perché io dove abito? Non abito in via Pascoli, ma ero già in via Pascoli. Cazzo, ci manco 10 anni a via Pascoli. C'ero, ho abitato solo 2 anni in via Pascoli, perché stavo offrendo la casa qua, è quella che avevano messo, ci stavo fuori facendo a nuovo. Porca miseria, allora quelle antenne sono le tue, figura di due, manco di Giambia. Guarda, mi ricordo quando viaggiavano con Tore, mi ricordava che questo caso si addormentava in ogni posto. Erano amici miei, sembrava Stanley Udio. Ma vabbè, Tore non te lo può raccontare più, ma glielo ha raccontato a me, cazzo, mi sono pisciato addosso. Una volta che sono andati a Roma, ma faccio un giro così, sai, perché loro partivano spesso, no? Stavano sempre in giro, tutti e due, mi ergo loro. Lo chiamavo a Tore, e vabbè, usciamo domenica, andiamo da Antonio in campagna a farci 2 mele. Ma cosa? Che sono a Roma, con Gianni, a Roma, che ti viene bene a Roma? Ma faccio un giro così, sabato e domenica, rientriamo domani. E Tore, che era più bastardo, poverino, Dio ce l'abbia, perché Tore era una bravissima persona, ma c'aveva, era di una cosa allucinante, doveva andare a morire. L'ha portato a Roma a mangiare lì alla parolaccia, che si mangia da Dio, veramente, io sono nato con Tore. Lui che non è abituato, cazzo, com'è entrato? Lui, Tore è già pronto, ha detto lui, non che abbatte la riccia. Come è entrato? Perché lì il saluto è a parolacce, capito? Lui, buongiorno, io, ma che cazzo ti conosce? Ma che cazzo ti è venuto a fare qua? Ma che cazzo? Questo. Allora, ma portato! Allora non dice mai un cazzo, l'ho salutato, mi ha mandato una fanculo. Era terribile tutte e due, guarda. Ai, che tempi ragazzi, che tempi. Vabbè. Ok, niente. Bei tempi, allora c'era. Ci si poteva ancora divertire, dai. Aspetta che mi squilla. Vuol dire che ti sta funzionando. Sì, Gianfra, squilla, ma poi devo uscire fuori in veranda a rispondere, capito? Tutto qua. No, ma tornando a lavorare nel Tore, ho passato veramente dei bellissimi momenti, giorni, giornate, io tutte le domeniche scendevamo a Sant'Orso ad Antonio Caridi in campagna, stavamo lì la mattina, facevamo un po' di mele, un po' di frutta, favette, di tutto di più, facevamo l'aperitivo, Tore per me era un padre, si può dire. E poi ogni tanto anche io partivo con lui, dopo si è ritirato Gianni, siamo andati 2 volte in fiera, sono andato a Milano con lui, alla fiera di Milano una volta, poi sono andato 2 volte alla fiera di Genova, da soli io e lui. Veramente, ma giusto così a farci un giro, avevamo preso troncate, però così andavamo, Tore era Tore, niente a fare, conosci bene, l'hai conosciuto, aveva il suo carattere, però con me andava d'accordissimo perché lo assecondavo molto. L'unica cosa che io temevo è sedermi in macchina con lui, perché partiva la riccia, cazzo, se tu invece sorpassavo da una parte, sorpassavi all'altra, ormai davi precedenza, cazzo, ti metteva a peso e quasi se ne scendeva a picchiarti. Sì, io mi ricordo quando ci vedevamo molto, mi chiamava, non passi, sì, appena finisco di lavorare, guarda, ci tiro il salto, passavo e lì stava con Gemma che poi lo prendevo in giro. Ho detto, Tore, ma ascolta, c'è la pressione alta, no? Quel carissimo Prodi, lo hai visto al telegiornale, e ho detto, oh, mi parla lì, che a momenti faccio il televisore. prigione di quel delinquente. Tu le nominavi quel nome, diventava rosso. E quello che abitava via Grazia Deledda, sei certo? No, a Prodi, quello che era presidente del consiglio, perché non rubriava idee. Quando le nominavi quel nome, guai, io lo chiamavo Mortadella, infatti, e lui... E lui si incazzava come una iena. Cioè, questo è un tipo tutto particolare. Un gigante buono comunque. Lo so, io l'ho visto, non voglio ricordarmi perché mi fa già male solo a parlarne. Io immaginati che ci siamo visti il giorno prima, abbiamo preso l'aperitivo assieme e mi ha detto non sto bene, devo andare, mi devo... pare che era di sabato, devo andare lunedì a fare degli esami, devo andare al controllo, al dottore, non ti trascurare, vai, non sia ragazzino, c'ho sempre la pressione molto alta, infatti la pressione molto alta è già per le mani. È venuto, mi ha fatto facendosi la luce, ma quando mi ha chiamato Carla sono subito corso a casa sua, ma lui era già morto, erano già tolto la doccia, Bruno, l'altro cognato, il figlio, avevano tolto la doccia, era un casino, poi un uomo del genere, Carlo Bisanti, e l'avevano già vestito, diciamo. Un casino, una giornata non mi voglio ricordare, una giornata veramente di merda. E vabbè, è andata così, purtroppo è andata così, però ripeto, non c'era da dire niente, né nel dialogo, era molto preparato politicamente, era una persona che sapeva i fatti suoi, aveva il suo carattere, però o prendere o lasciare, questo era il motto di Torre. O chi vi vuole sono così e chi no si arrangi, lui diceva sempre quello, però io ho passato veramente tantissimo tempo e veramente come non ha mai avuto, ma vediamo Marco se è salito nello sciacchio o se ancora sta dando un'occhiata al gatto Scorpio. Ebbe la ditta. Poi Rotondo. Ebbe, già Franco, adesso tu ci sei. No, è cazzo la gioia se curava i denti. Non lo so, ma il cazzo c'è arrivato a una certa età, Vecla. Ebbe già Franco. Sì, mi stavo sistemando la flebo. Cacca, adesso non voglio dire il nome di una persona, Gianfranco, non so se ve l'ho raccontato l'altro giorno, come si chiama? Ormai c'è una certa età per fare certe cose qua, perché io pensavo fosse molto anziano, uno che entra qua in radio, e fa di cacca, quanti anni ci avrà? 62, cacca, 62, e sei già vecchio a 62, uno si sentiva già vecchio a 62 anni, ha detto quello lontano da Sassari. Quello lontano da Sassari, non facciamo nome, è una bravissima persona, però cacchio, ho detto, un po' di vita, cacchio, mi sento un ragazzino, magari le gambe non mi reggono, però mi sento un ragazzino dentro, cacchio, almeno dentro. Vabbè, molti dicono, sono già arrivato, sì, quindi ancora sono una settimana io a fare picco, cazzo, e oggi mi ho rasato anche tutto il prato, mi ho finito tutte le cose che c'erano da finire, lascia perdere. Piuttosto, avete fatto tutto lì, o solo il computer ti ha sistemato? No, prima abbiamo fatto l'antenna, il PL dell'antenna, è venuto col soldatore, Marco è stato in gamba veramente, ha portato tutto lui, abbiamo fatto il PL e un attimino accendere, cioè perde più tempo a saldare che altro, però l'ha fatto in 5 minuti, dai. Ha messo su, poi siamo scesi giù e mi ha installato il book di stazione, mi ha fatto vedere delle cose, siamo stati una mezz'oretta così, perché è venuto tardi, io sono restato all'una e mezza, ho fatto tutto, non ho fatto neanche andando e tornando da Mogoro, sono 150 km, andare 150 a tornare, ho preso quel tralicetto e ti posso dire è veramente bello, già te lo faccio vedere se passi, e ne altri due però in alluminio più grossi, e quelli te li da, quelli sono due pezzi da 3 metri e 101 tutti e due. Vabbè, tu li hai presi, quanto ne hai preso quei due che mi hai detto a me? Io ho preso quelli in ferro zingato, 3 da 2 metri, sono 6 metri in tutto, un nuovo bello zingato, così posso saldare, gli altri sono in alluminio. alluminio, però sono più grandi quelle altre. No, va bene, quelli che peso tu. Ottimo, a quel punto là ci vetri e ci buttano sopra le antenne, molto bene. Mi raccomando, il cavo, mi ha detto Marco, l'avevo già detto io, quel cavo è da sostituire degli anni 30, se tu me lo dicevi, Robè, ordinavamo una matassa intera di H1000 e ti facevi tutti, ti mettevi tutti i cavi nuovi. Vabbè, comunque, dai, poi vedrai tu. Avanti Gianfranco. Infatti. Gli avevo detto anch'io più di una volta. Perché i cavi non vanno niente d'accordo con VHF e con l'OHF nella maniera più assurda. Se poi anche vecchio vedrai che se ti prendi la briga di farle l'autopsia di aprirlo, va bene, vedrai che cazzo sì. Avrà più. Allora Gianfra, non è vecchio, diciamo, non è quello come l'altro discorso. Ti hai presente che l'antenna l'ho messa in quel paletto, ti ricordi quello piccolino, quello basso, che gli ho messo un palo di, sarà tutto 5 metri qualcosa, quell'altro spezzo, sono due pezzi da 2 metri e poi c'è un altro pezzo più o meno 5 metri di palo, 4,50 metri. Quello lì è solo provvisorio, poi quell'antenna va a finire dietro nell'angolo dove metterò il traliccetto, e lì metterò la H1000, l'H100, vediamo, un cavo buono dedicato alle bande alte, diciamo, e quella lì rimane per il dipolo, quel cavo che c'è di lì, tanto vedete, non ne ha un 213, non è un cavo da 13, e lo posso utilizzare per mettere il dipolo, per alimentare il dipolo. Sirurampi, no, neanche per l'HF quel cavo va bene, mettiti un cavo serio, già che stai facendo lavoro fallo bene, non pasticciate, metti cavi buoni, dopodiché te ne stai tranquillo, senza fare incavolare la gente. Beh, vediamo, dai, tanto sono ancora niente alla lavagna, ho solo l'antenna per le vuole 1, non ho nient'altro, tieni presente, e la multibanda per ricevere, basta, quando ci sarà il momento opportuno poi ne parleremo, come ho detto a Claudio, magari si mette d'accordo con qualcuno, se ne prende una matassa da 100 metri e ce la dividiamo. È stato già ordinato lui la matassa. 100 metri se ne ordina? Sono 20, no, 50 metri credo. E che cosa sta preso? H1000 o l'H100? H1000, prendi l'H1000 o prendi il Messi Paoloni. No, altre scelte non ce n'è. Il Messi Paoloni ce l'ho io, ottimo. Ne ho preso, non ricordo quanti metri, mi è venuto intorno alle 300 euro. Perché io sono molto distante, ogni tratta è 30 metri. Ah vabbè, tu ne hai preso una matassa da 100 metri allora. Non me lo ricordo adesso, perché oltre a quello avevo preso il Celflex, perché se no in UHF non ti arriva niente, quando sei con 5 watt guardi il coso e vedi che potenza non c'è in assenza, perché se l'ha mangiato col cavo. E quindi sono dovuto ricorrere al Celflex per starmene tranquillo. Quello era stata una grossa occasione, l'avevo preso da un radio shop e a sua volta l'aveva preso da una stazione cellulare praticamente, perché per quelle frequenze puoi usare solo il Celflex. Mi era arrivato, mi ricordo, con Bartolini, poveraccio, e questo non riusciva, eravamo in tre a scaricare questi 60 metri di Celflex, ma tieni presente che me l'hanno dato, perché erano credo due spezzoni da 35 metri, una cosa del genere, quindi mi veniva, non so, credo un 10 euro eccetera, un cavo che in realtà credo che fosse 15, 16 euro al metro, è un tubo d'acqua praticamente. Sì, già lo conosco, il Celflex lo conosco, perché c'è una parabola che era cablata con Celflex per microonde. Dubito che fosse Celflex, perché a meno che non era quello finissimo, questo neanche lo pieghi, cioè devi stare molto attento, perché massimo ti fa una U proprio a forza tirandolo, piegandolo con attenzione, perché c'è un dielettrico che è già di roba di un centimetro. No, Celflex, ti hai presente, stiamo parlando di una parabola di Ponte Radio, non stiamo parlando di una parabola di ricezione, questa è in trasmissione, era collegata. Appunto, quindi se sa di cosa stiamo parlando, è un cavo che è anche difficile da piegare. Claudio, che hai fatto? Ti è scappato il gatto, il cane? E Marco è rientrato. Marco è arrivato a casa e poi se c'era tempo saliva in stazione. Comunque questo cavolo TS2000, ieri sono andato a accenderlo, era tutto azzerato. Poi deve essere dopo un minuto si azzera, dove ti dico. Adesso da bravo ragazzo e da bravo quadrato ti metti a leggerti il manuale, paragrafo memorizzazione, inizi con le ditine a mettere 160, 150, 145, 600, con meno, shift, poi ci metti il tono e poi premi memoria, che sarebbe M/W, se non ricordo male, che vuol dire write in inglese, scrivere. Sono rientrato. Non è memoria in, Gianfra, ciao. Il memoria in, per inserire, l'altro workshop per uscire, come è 4.40, non cambia niente. No, stavo dicendo che sai perché si è resettato solo dove? Perché tu gli hai dato il comando, no? L'accensione, comando A uguale B, per il reset totale. Automaticamente lui si è memorizzato il comando, però quando tu poi hai staccato l'alimentazione, che hai spento tutto, lui si è resettato da solo. Infatti avrà fatto quella procedura lì, mi immagino io. Non è, il 440 è tutto analogico, quello c'ha un sacco di processori, probabilmente ha preso l'informazione, l'input e poi, insomma, hai spento, dopo un po' ti ha fatto il reset. Sì, sì, perché quando tu davi il comando e poi accendevi la radio, attivi accesa, lui il comando non lo prendeva, invece quando tu l'hai tolto l'alimentazione, lui ha preso il comando e si è resettata. Vabbè, dai, abbiamo imparato una cosa in più. Cacca, poi ieri mi stavo spaventando, vado ad accendere la radio e mi appariva solo un display, solo un trasmettitore, e l'altro non appariva. Ma che cacchio è successo? Tutto, le guardate, il manuale, letto, alla fine, cacchio, c'è l'interruttore sul comando sub, dove c'è il volume, tiri e si accende, non lo sapevo. La gente aveva una macchina da guerra, lì c'ha, vabbè, c'ha tante di quelle cose, un computer, no, non c'è niente da fare. Anche c'è una radio passata di tanti anni, però per me rimane sempre la miglior radio che ha fatto la Kenwood, come quadribanda, come tutto, perché è un computer. Ma vabbè. E quindi non te l'hai fatto memorizzare i punti? I punti me li ha messi su internet, sul computer ce li ho quelli. C'ho la pagina, l'icona, ci clicco sopra e ci sono. Ah, molto bene. Ok, vai Gianfra. Quindi te li puoi anche inserire. Sì, in certe radio è memoria in certe altre è MW, dipende, però la funzione è sempre la stessa. Che pazienza che ci vuole, ma a questa età ce lo potevamo immaginare che arrivava questo ragazzino qua e ci faceva uscire di testa? Ragiono Violetto, ci ho preso una strampata poco fa sul tetto, mamma, mi sono tutto a dolore, mi si sono aperti pure i pantaloni. Vabbè, nell'acqua? No, allora sono andato con Marco tutto a posto e mi ha lasciato il cavo della corrente sopra, l'ho staccato giù da casa, una matassa da 50 metri, stavo camminando al manico, siccome è tutto buio di lì e c'è un lavandino, non so se avete visto in terra, di quei lavabi in porcellana, tu ce l'hai presente quando ti sbatti in pieno che non lo vedi proprio, boom, mi ha preso caviglia e ginocchio, sono scivolato in avanti, cioè ginocchio, la caviglia, sicuramente domani, no, domani ce l'avrò, non riuscirò neanche a camminare, tutto fasciato, i pantaloni si sono aperti e tutto insanguinato, cacchio, ma mi ha preso in pieno, tu quando ti sbatti è una cosa che non te l'aspetti, che stai anche camminando col passo svelto, proprio boom, detto, che cacchio è successo, e c'è la lavandina in terra, non l'avevo visto. Cazzo, ci siamo passati l'altro giorno con la bandina, ti ha detto, cazzo, ma quella mezza le male c'è la bandina, poi non dobbiamo togliere. Ma è pesante, poi perché tutto è in porcellana di quelli vecchi, avevamo messo tempo fa di lì su per appoggiarlo, c'è boh, dei drammi. Cazzo, non lo potevi dire, lo prendevamo, lo sfottevamo. Porca miseria, e già lo so, ci sono passato sopra io l'altro giorno. Quando siamo usciti che abbiamo finito il lavoro dell'antenna, hai visto la tenore, quindi DFB ha colpito ancora. un bel lavoro quello, è una bella vulcanizzata, bello tutto, adesso ti cambi il cavo, poi ma qui quell'antenna la metti sul traliccio? Sì, io voglio fare così col cavo buono. Allora, in V le stazionarie erano circa 1,3, che è presente con quello strumentino che mi hai dato tu, e mentre le cose non c'era niente, 1,1 erano i UHF. No, ma in V quello c'è sempre una tolleranza, l'ho visto anch'io qua, perché l'avevo provato col mio, quindi se c'hai neanche 1,3 lì sono 1,1, 1,2, quindi vai benissimo. 1,1 in UHF, 1,2 in V alla grande come me, che non tarano molto con le antenne, non sono molto, sono già preparate, capito? Però Marco mi ha detto che quella puntina che c'è, proprio quel giochettino che c'è, lì si poteva regolare, però noi l'abbiamo fatta a occhio ma siamo andati di lusso, l'importante è l'antenna sia piazzata bene. Sì, mettetela nel traliccio come ce l'avevo io, una volta che è tutto sistemato, la togli da lì, la metti sul traliccio in punta, non c'è problema, lavora meglio, più alta e tutto, vai già a fare. Se metto il cavo nuovo non c'è neanche bisogno di cambiare il tubo, lo usa come master il tubo, e lo fonda le gaffe, lo mette attaccato al traliccio e fa tutto un lavoro particolare, ma speriamo bene. Dai, piano piano si fanno le cose, io gioco alle elementari, voi siete ancora alle superiori, e Marco Mari è ancora più avanzato, per cui io ho iniziato dall'elementare, mi sto facendo guidare da voi, che siete più pratici, più esperti, ognuno nel proprio ambito, e per cui piano piano quello che magari uno ci mette 10 anni a imparare, cercherò di impararlo in breve termine. No, ma qua appena abbiamo montato, Robè, non è che sia difficile, che devi stare attento a quello che hai visto, ho capito? Quelle giunzioni, piano piano, perché se rompi quel rame che c'è dentro è quello del cuore dell'antenna. Siccome me l'hanno segnato, io te l'ho fatto vedere volentieri, la prossima volta te la piazzi alla giura, cosa pensi che venga piazzatia? No, la piazzi tu. Ascolta, il diploma, vabbè, non ce l'avete fatta a stenderlo, quello in settimana, vabbè. Vabbè che tu c'hai poco tempo, poi la sera quando esce buio, magari sabato mattina, questo prossimo sabato, i liberi lo prendiamo da dov'è, c'è chiaramente asciutto sul tetto, lo stendiamo bene tutto, così facciamo due foto a Marco, o viene anche Marco, lo vede, se c'è da mettere gli occhiali nuovi si mettono, si prepara già e si inizia a montare anche quello. Ma c'è un piccolo problema. E che problema c'è? Perché mi sembra che sia il 25 sabato. Ah, ma neanche ne hai qua. Lascia perdere, sì, perché venerdì è il 24, infatti hai ragione. Dopo Natale ce la facciamo. Dopo Natale, dopo l'Epifania, quando vuoi tu? Se hai una giornata, nelle giornate festive, mi chiami, lo stendiamo bene, controlliamo se è tutto a posto, se c'è da cambiare gli occhiali, ti ricambio, capito? Iniziamo a assemblare anche quello. Sì, sicuramente. Magari molte volte il 26 non si sa cosa fa, se il 26 ne abbiamo voglia e c'è una bella giornata, se vuole dedicarci anche Gianfranco, lo mettiamo a tenere da una parte il filo, Gianfranco. La vera. No, scordatelo, con l'errore che ho fatto oggi, poi adesso sono una settimana con qua a terra praticamente. Sto scherzando, poi naturalmente, io non voglio essere troppo invadente, infatti mi dispiace anche Marco, si è dedicato, Claudio, e ci rimango anche male molte volte perché non sai come controllare e cambiare, così Gianfranco tu quando mi hai aiutato l'altra volta, sono sempre in debito diciamo, e a me non mi piace essere in debito con le persone. E cosa, se continui a farvi dare, in debito con me ci... Ah, ne arrivi, quante rotture di palle ti chiedo e quante cose mi fai, sei in debito con me, ma finisci la roba dietro, frate, per favore, io non ho problemi, io tanto sono a casa, non vado da nessuna parte, mi godo il Natale, Santo Stefano, l'Epifania, il Capodanno, noi siamo qua, quest'anno è dedicato a casa mia, quindi non ho problemi. Sì, a Santo Stefano tu non devi fare niente, che è un giorno come gli altri, perché a me interessa il 24 notte e il 25 che è Natale, poi me di Santo Stefano me la futti manco balle balle, quindi se tu sei libero una bella giornata lo stendiamo col dipolo, perché è grande, già l'hai visto, così vediamo come ha detto Marco se è tutto a posto, perché io l'ho staccato funzionante, però ci vogliono gli occhiali per agganciare gli 80 metri e quelli ce li ho io, non c'è problema che compri niente, capito? capito quelli grossi che mi ha detto Marco li avevo comprati, che ci fanno lo stagno bello dentro, capito, sono tipo quelli dei cavi della batteria della macchina, quelli non quelli del cazzo, si prepara già tutto e poi ce lo teniamo pronto per montare, capite? Sì, sì, sì, non c'è problema. Ok, vediamo di nuovo Gianfranco, il mic a te. No.